ma fammi il piacere, ti voglio aiutare e farti capire, amore, ti amo. Ricominciamo, ti amo. Ricominciamo, io saprei, vorrei ricominciarti, io vorrei, saprei, ricominciamo. Yeah.